Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, giornata cruciale sia in Coppa che in campionato. 18:30 Firenze, Milan può riaprire ulteriormente il campionato e il Cagliari a Udine può ulteriormente a sua volta inguaiare l'Udinese in classifica. 20:45 San Siro, dall'andata di Inter-Chelsea si comincerà a capire quale delle due squadre si giocherà fino in fondo quest'anno la Coppa Campioni, orientativamente contro Barcellona e Real Madrid. Tutto questo e molto altro ancora affidato all'esperienza, alla saggezza, direi, di Adalberto Bortolotti. Buongiorno Adalberto. Ciao Gigi e buongiorno a tutti i tuoi ascoltatori. Senti, San Siro, campo principale, due squadre molto forti, nessuna delle due al top in questo, in questo momento, o per una ragione o per l'altra. Tu come te la figuri? Ma è una sfida appassionante, questa è la prima banalità che mi viene in mente, perché sono due squadre abbastanza simili in un certo senso. Ora Mourinho dice che è così perché il Chelsea è ancora legato ai suoi schemi e quindi gioca come gli ha insegnato lui. In realtà sono squadre con forti individualità, un gioco collettivo non entusiasmante, cioè non eccessivamente fluido, però di una grandissima robustezza. Il Chelsea sinora anche in campo internazionale nel corso della stagione, perché il suo girone l'ha vinto, diciamo, a redini basse. Sì. L'Inter per adesso in campionato, dove le ultime vicissitudini non proprio trionfali sono state, a leggere bene, anche la dimostrazione della solidità di questa squadra, perché certo, la sua partita in 9 contro la Sampdoria ha toccato a centi eroici a un certo punto. Verissimo. Ecco. E quindi è una partita estremamente aperta e io non credo che in ogni caso chiuderà il discorso della qualificazione. Due riflessioni tra le tante possibili, due spunti. La prima è che il Chelsea qualche problemino difensivo lo ha, soprattutto sulle corsie esterne, o comunque così viene, così si presenta dopo le ultime uscite, compresa quella vittoriosa dell'ultimo turno di campionato, oltre all'assenza di Essien, che è un formidabile centromediano metodista, insomma, di quelli a protezione della difesa. L'altra è insomma, credo che qualche interista si stia domandando in questo momento se è vero che parte Eto'o e Pandeve in panchina, perché con tutto rispetto che merita Eto'o, ma insomma direi che il grafico di rendimento di questi ultimi tempi ha segnalato un Pandeve, a mio modo di vedere, utile sempre e spesso decisivo, e un Eto'o pieno di buona volontà ma anche un po' spaesato, anche un po' a disagio in un gioco per lui completamente diverso rispetto a quello a cui era abituato, che e dopo ne parleremo, è lo stesso problema che sta capitando secondo me al contrario a Ibra a Barcellona. Sì, ci stavo appunto pensando, avendo in mente l'Ibra di ieri sera, poi ci arriviamo, la partita come sta nelle sue corde, ma che ha virgolette peggiorato la manovra del Barcellona, perché si sviluppa con un uomo in meno. Infatti allora partiamo da rivista. Un corpo estraneo al gioco del Barcellona, così come Eterno secondo me non ha ancora capito in che mondo è planato, diciamo. Sì. Perché era abituato appunto a un gioco che si sviluppava a memoria. E lui sapeva che andando in una certa parte del campo sarebbe stato raggiunto dal passaggio e in quale momento, e invece deve ancora capire, avendo poi avuto quella Coppa d'Africa in mezzo che ha sicuramente ritardato l'inserimento completo. È chiaro che, così come a Barcellona non stanno vedendo il migliore Ibrahimovic, a Milano ancora non hanno visto il migliore Torre. Questo è vero. Io credo che prima o poi l'Inter di Mourinho anche in Coppa giocherà una grande partita, perché è una questione di grandi numeri, no? Noi fino adesso questo allenatore che è stato ingaggiato, non dico apposta, ma insomma in particolare per provare a vincere la Coppa Campioni, di grandi partite non ne ha mostrate, anzi semmai ne ha mostrate di pessime, se si ripercorre il cammino dello scorso anno e anche qualcosa della qualificazione di quest'anno. Allora, lo so che queste suggestioni poi contano poco, contano i fatti, ma tra la carica che può derivare da questo soli contro tutti, da quello che tu ricordavi dei 9 contro 11, da una parte, e dall'altra da questa legge dei grandi numeri, beh, insomma, prima o poi l'Inter farà una grande partita in Coppa Campioni. Sì, e devo dire che in teoria, ma forse non solo in teoria, l'Inter di quest'anno è più adatta alla Coppa dei Campioni, insomma, alla ribalta europea, diciamo, perché ha comunque migliorato sul piano della produzione del gioco, perché riesce a essere più offensiva in certe fasi, e perché poi mano a mano sta prendendo l'impronta del suo allenatore. Io per quello vedo una partita quasi indecifrabile. Il Chelsea l'ho visto moltissimo quest'anno, perché mi interessava vedere Ancelotti alla prima esperienza così lontano dal suo mondo. Certo. Perché mi piacerebbe tanto che fosse il primo allenatore italiano a vincere la Premier League, insomma. Ed è una squadra che ha giocatori fortissimi. Dicevi tu giustamente la difesa, non dimentichiamo che manca di tutti i terzini titolari, certo, delle loro principali alternative, insomma, nel senso che Bosiva e Ashley Cole era la coppia di partenza. Poi Ivanovic ha giocato molto bene ed è una sicurezza a destra, però a sinistra è mancato anche Kirchhoff, che era l'alternativa di Ashley Cole. Si è costretti a vedere probabilmente un Belletti rimesso in piedi in fretta e furia, e comunque fuori ruolo. Non è un handicap da poco, eh? Non è poco, considerando che il dominio sin qui, anche se adesso c'è un solo punto col Manchester United, ma una partita in più da giocare per Ancelotti, il dominio nel campionato inglese, dove è in testa dalla prima giornata, è dovuto soprattutto a un altissimo rendimento difensivo rispetto alle concorrenti, certo, e la squadra, certo, che largamente subisce meno gol. Certo. Senza dimenticare che Belletti da quella parte, con tutta la sua precarietà eccetera, si becca uno che si chiama Icon, che in queste serate qua in genere la sua figura la fa. E adesso, rispetto ai discorsi di prima, spostiamo l'orologio indietro di un paio d'ore, anzi un paio d'ore e un quarto, ci spostiamo a Firenze. E la domanda è ad Alberto: ma davvero il Milan ha la possibilità di riaprire questo campionato che è sembrato strachiuso già almeno un paio di volte? Ma direi di sì, perché l'Inter, dopo la stangata, Chelsea a parte, si ripresenterà in campionato con assenze importanti, alcune anche se non interverranno cambiamenti nelle sanzioni disciplinari, alcune direi fondamentali, penso a Cambiasso, giocatore che è di un'importanza straordinaria nell'impianto del gioco, e perché il Milan, visto a Bari, sta già facendo vedere la cosa pre-derby, insomma la sua forma pre-derby, che si è poi interrotta bruscamente con quella scopola dura da digerire. A proposito del Milan, mi veniva, guardavo adesso la formazione prevista per Firenze, mi veniva da pensare che il famoso turnover, noi ne abbiamo visti passare tante di mode, imporsi, diventare fondamentali, sì, e poi sparire, ma mi pare che il turnover sia su questa strada. Di sparire, cioè. Turnover nel senso letterale non lo fa più nessuno. Non lo fa più nessuno, è vero. Il Milan ha giocato domenica sera, se non mi sbaglio. Come gioca no? Mercoledì, rigioca domenica, e quindi avrebbe tutti i diritti di procedere ad ampie rotazioni. Mi pare che rappresenti più o meno la stessa squadra, probabilmente... la squadra più affidabile. L'Inter lo ha sempre fatto, perché poi Mourinho e Capello credo che siano allenatori che non abbiano mai fatto il vero turnover, no, neanche quando pareva indispensabile. E così anche guardando lo stesso Manchester United, lo stesso Chelsea, che ruotano uno, due uomini, per carità, avendo rose vastissime, però ormai si battezza, e per me questo è un progresso, sarà un ritorno all'antico, ma è un progresso, perché l'identità di una squadra va tutelata ed è per me uno dei valori più importanti della squadra stessa. Ciò premesso, il Milan sì, secondo me può riaprirlo, dipende molto da stasera dove deve vincere, ecco. Deve vincere anche per far sentire all'Inter la pressione, dopo che la stessa Inter, come tutti noi, si era convinta di aver già risolto la pratica. Ci metterei anche l'Udinese in questa vigilia. Ci metterei il Cagliari, che sta, io lo confesso apertamente, se c'è una squadra che mi piacerebbe arrivasse a questo famoso quarto posto ambito almeno la 5-6, è il Cagliari di Allegri. E quindi una volta espressa la dichiarazione di voto, non c'è dubbio che Udinese e Lazio, no? in queste condizioni, in piena zona retrocessione, se ci riportiamo in estate, sono due sorprese clamorose tutte e due. Senza dimenticare che la Lazio ha addirittura vinto la Supercoppa a inizio di stagione, quindi pareva quello il passo verso un definitivo ingresso in quella zona immediatamente post-Champions, comunque ai confini fra il piazzamento Champions e il piazzamento Europa League. Ma la stessa Udinese, che in quelle zone in fin dei conti ha sempre navigato negli ultimi tempi, era accreditata di un campionato di livello, aveva perduto uno dei suoi protagonisti d'attacco, Quagliarella, ma probabilmente il problema non è lì, perché Di Natale sta facendo i gol suoi e di Quagliarella. Però non basta, ricordo così, perché è una realtà a me vicina, che lo scorso anno il Bologna si è salvato all'ultimo minuto pur avendo in divaio il capocannoniere del campionato per tutto il campionato tranne l'ultima domenica col sorpasso di Ibrahimovic. Quindi evidentemente non basta avere un uomo da 25 gol per salvarsi, ci vuole qualcos'altro. Il ritorno di Marino però penso che sia stato, sia pure tardivamente, una mossa saggia, perché questa era una squadra costruita per un allenatore che ha una particolare sua visione del gioco, cioè un gioco propositivo, di iniziativa, eccetera. Fidarla a un altro, sia pure un ottimo professionista come De Biase, non mi era parso un'idea luminosa. Faccio notare en passant che conversando, chiacchierando prima e facendo quell'inciso sul turnover, tu da antico maestro di giornalismo sportivo hai dato là un'inchiesta, o il titolo comunque una possibile inchiesta, che è quello della scomparsa del turnover, no? Più o meno ufficiale da parte di qualcuno, da altri comunque, insomma, queste rose pletoriche, tutti gli altri discorsi che si sono fatti in questi anni. Arriviamo al Barcellona, perché ieri sera, perlomeno nel primo tempo, poi le cose si sono un po' riequilibrate con l'1-1 finale, ma nel primo tempo di Stoccarda-Barcellona io ho visto due paradossi che, se pensiamo al nostro campionato di un anno prima, erano incredibili, cioè Ibrahimovic, il freno a mano del Barcellona nella versione, a parer mio, del peggior Vieri, insomma, ma del peggiore nel senso degli ultimi tempi e cose, e Molinaro che sembrava Cabrini, Cabrini, beh, ho già esagerato con Cabrini, sì o no? Ma Molinaro secondo me ha fatto un grandissimo primo tempo, in assoluto una grande partita, perché poi ha salvato anche, visto che non gli hanno fischiato il rigore, ha salvato il pari, la parata l'ha fatto lui, e un portiere di rinforzo ci vuole quando in porta ai Lehmann, che secondo me è uno dei grandi misteri del calcio, perché sarà 15 anni che lo vedo sempre in grandi squadre e in grandi manifestazioni, e mi chiedo sempre perché? Ma comunque forse sono sfortunato quando lo vedo io fare delle campagne, però le fa sempre. A parte questo inciso, io credo che sia stata un po' affrettata la decisione della Juve di liquidare Molinaro, probabilmente illudendosi, credo, dietro suggerimenti nobili, che Grosso fosse rimasto a Berlino, suggerimenti nobili, anni fa, ecco. Nobili nel senso che Lippi è imparentato con i Savoia, intendi? Ultimamente sì, così. Nobili e autorevoli, certo. Perché, per carità, istituzionali addirittura, quindi uno dei io penso con, faccio un altro inciso, penso con viva preoccupazione ai prossimi mondiali, sperando di essere proprio bocciato su tutta la linea, ma vedendo questi ritorni Zambrotta, Cannavaro, Grosso, che saranno perni della nazionale, ecco, siccome la nostra forza è tradizionalmente la difesa, sì, poi ho visto anche Buffon fare un paio di cose ultimamente, ecco, vengono i brividi, per fortuna manca ancora tempo, ecco, sì, diciamo così. Qualche perplessità ce l'hai, ed è legittima, e così facendo, sempre per via di quelle lezioni a passare di giornalismo, hai già anticipato anche Italia-Camerun di mercoledì prossimo a Monte Carlo, partita per cui domenica ci saranno le convocazioni di Lippi. La domanda finale ad Alberto è quella di questi giorni, e cioè molto proprio ridotta all'osso, alla radice quadrata. Si è complicata la vita all'Inter o gliel'hanno complicata? O in che percentuale c'è una concausa di questi due fattori? Ma per me se l'è complicata, perché non aveva bisogno, cioè era in una tale posizione di vantaggio, di superiorità, che poteva anche sorridere di eventuali torti subiti, non aveva bisogno di infuriarsi, né di stuzzicare continuamente. Ciò premesso, e di questo sono convinto, l'arbitraggio di Tagliavento, così beatificato dalla critica generale, mi è parso tanto ossequioso del regolamento nello stretto, quanto contraddittorio rispetto a quello che i grandi arbitri di una volta ritenevano la principale regola, cioè la quella scritta del buon senso. Credo, e mi pare di ricordare, che le manette di Mourinho siano venute dopo l'ammonizione di Eto'o, e credo che l'ammonizione di Eto'o sia stato un fatto gratuito. No, per la verità sono venute dopo l'espulsione di Cordoba. Perché dopo Eto'o no, ha fatto l'espulsione di Cordoba, la seconda ci poteva anche stare. L'ammonizione di Eto'o mi passa provocatoria inutilmente, anche perché si basa su un assioma che gli arbitri di oggi hanno assunto, per cui se uno cade in area o è rigore o è simulazione. Invece no, può essere che un giocatore che stava correndo come un pazzo, arrivi stremato, certo, cada in terra in area altrui, si guardi bene dall'invocare il rigore e quindi non ha commesso alcuna simulazione. E se anche si lascia cadere un pochino in quell'attimo, beh, insomma, è veniale, non è reato. Anche per la delusione di non aver raggiunto la palla, voglio dire, io l'avrei capita se si fosse alzato invocando sguaiatamente il rigore, cosa che si è ben guardato dal fare, quindi a quel punto un arbitro, quella la poteva davvero lasciar perdere, e magari poi perché esaspera un ambiente, esatto, no? Tenersi quel pizzico di severità in più poi per Milito quando ha aperto la gamba di Palombo, perché eventualmente, se quella è la regola, devi poi proseguire fino in fondo, certo, Ad Alberto, grazie come sempre. Grazie a te per questa lezio magistralis di pallone. Forse c'è tempo per un ascoltatore, poi abbiamo molte, molte voci di vigilia da ascoltare. Andrea, chiamato da Cremona, buongiorno. Sì, buongiorno a lei. Gigi, innanzitutto complimenti per la trasmissione. Sarò velocissimo. La domanda che volevo fare era se il Milan, sono tifoso del rossonero, se il Milan appunto poteva riaprire il campionato, ma ha già dato la risposta grande ad Alberto e mi è sufficiente, vincendo stasera intendo. E poi volevo chiedere a lei di cosa pensa della stagione di Ronaldinho, e per finire, visto che sono un tifoso e non sono ipocrita, da grande tifoso rossonero voglio fare l'in bocca al lupo a Carletto Ancelotti, che aspettavo. Ci manca sempre. Grazie mille, Gigi. Me l'aspettavo. Dunque, Ronaldinho sta facendo una stagione in crescendo assolutamente sorprendente rispetto allo scorso anno. Cioè, è evidente che Leonardo ha trovato gli argomenti giusti, ha trovato le motivazioni giuste, e che le stesse motivazioni giuste ha trovato Ronaldinho, perché insomma quello che l'anno scorso era oggettivamente una figurina che giocava su una mattonella, e su quella mattonella poi qualcuno la azzeccava ed era, per carità, da levarsi il cappello, e quasi tutte le altre le ciccava, è invece diventato un giocatore adesso determinante, uno snodo cruciale per la manovra del Milan. È come una raffineria, non so come dire, no? Gli arrivano delle cose, dei palloni grezzi che lui trasforma in qualcosa di prezioso, in metallo prezioso. Quindi oggettivamente mi sembra che oggi sia questo il Ronaldinho rigenerato, da questa cura Leonardo, probabilmente da una sua voglia ritrovata, da una maggiore fiducia ambientale, o forse da tutte queste cose insieme, chissà che cos'altro ancora. Molti messaggi interessanti. Per esempio Paolo scrive: Ronaldinho gioca così perché vuole andare al mondiale. Questa è un'ottima chiave di lettura. Infatti questa certamente è una molla decisiva. Dato che però Dunga lo ha già un paio di volte, gli ha già fatto capire, non, neanche con giri di parole troppo ampi, che così non sarà, mi pare che a differenza di Cassano, che si è lasciato andare, stessa situazione grosso modo in prospettiva mondiale, mi pare che Ronaldinho non si stia affatto lasciando andare. Rosario: noto con dispiacere che ci sono critiche anche quando un arbitro fa il suo pieno dovere, forse non siamo mai contenti. Rosario, Adalberto Bortolotti ha espresso un'opinione nell'ambito di un arbitraggio che ha definito eccellente, coraggioso e non ricordo che cos'altro. Ha rilevato la mancanza in una certa fase della partita della famosa vecchia regola 18, che è quella che non esiste e che è quella del buon senso. Se questo le pare una critica, questa è un'osservazione che proprio per dire che nessuno è perfetto. E poi ci sono molti messaggi. Non so, Giuseppe: io in Coppa tengo per gli italiani, visto che stasera l'unico italiano in campo è Ancelotti, eccetera eccetera. Gianpaolo Lobasso ha mandato una mail e dice: ma come faccio a non tifare Chelsea? Almeno un italiano, anche se in panchina ce l'ha, l'altra squadra, cioè l'Inter, non ne ha nemmeno uno. Salvo, ha chiamato da Catania, buongiorno. Sì, buonasera dottore. Dica. Guardi, io voglio dire che mi sembra eccessiva la pena che gli hanno fatto a Mourinho. Uh-huh. Cioè 3 giorni di squalifiche per aver fatto un gesto in uno stadio per giunta, e poi anche le squalifiche a Cambiasso e a Montari. Ma tutto questo non può influire sul giusto svolgimento del campionato, perché ora noi possiamo perdere a Udine e c'è chi può recriminare, dice l'udinese ha vinto con l'Inter perché gli mancavano 4 giocatori. E quindi? E quindi mi sembra eccessiva soprattutto quella di Cambiasso e di Montari. Era giusto dare questa squalifica. Ma lei lo sa, scusi, se Montari, ma Montari o chiunque, esce dal campo e insulta la terna arbitrale in maniera pesante, così c'è scritto sul referto, lei cosa fa? Fa finta di non sentire? Però già c'erano uno. Se Cambiasso in spogliatoio nel sottopassaggio salta alla gola di Pozzi cercando di menarlo e non ci riesce solo perché li dividono di colpo, lei cosa fa? Fa finta di non vedere? Ma questo già è stato dimostrato che ha fatto così. Secondo lei, se no, perché gli dava 2 giornate di squalifica? Salvo, c'è un rapporto della Procura Federale, di un procuratore federale che era nel sottopassaggio. Io lo so, però le cose che si sommano poi creano dei problemi all'udinese. Vabbè, sì, ho capito. Era per la par condicio, insomma, il suo intervento, se non l'ho capito male. Guido Napoli, buongiorno. Era per la zona, per la tutela della regolarità della zona retrocessione. Guido da Napoli, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Dica. 2 cose sull'Inter. Una per quello che è capitato sabato sera, il famoso gesto di Mourinho che ha scandalizzato parecchie persone. Vorrei ricordare a tal proposito proprio la presa di posizione di Galliani e di Diego Abbadantuono, grande tifoso del Milan. Diego Abbadantuono, allora io le ricordo Emanuele Filiberto. Facciamo così, dai, lei mi ricordi Diego Abbadantuono e io poi passo su Emanuele Filiberto. Sì, così. Allora diciamo solo Galliani. Ecco, Galliani. Galliani sì. già lo prendo un po', lo prendo un po' con le molle eventualmente, però dica. No, ha preso le distanze da questo gesto, sottolineando che si trattava di una istigazione alla violenza e un gesto che avrebbe sobillato le folle e che poi Mourinho non avrebbe mai dovuto fare questo. Ma questo gesto l'abbiamo detto in tanti, l'abbiamo detto in tanti e non soltanto Galliani, anche più autorevolmente di Galliani, secondo me. Visto che Galliani il primo comunque a fare è parte in causa. Questo gesto in pubblico è stato il suo presidente all'assemblea della Confindustria e della Confesercenti nella scorsa primavera, a maggio e a giugno. Ha poca memoria il dottor Galliani. tornando poi alla partita di stasera. Era lì che voleva arrivare, adesso ho capito questa lunga rincorsa. Stasera, dottor Garanzini, io rinuncerei mai a un giocatore come Balotelli. Lei rinuncerebbe mai a un giocatore? È l'unico che ha fatto vincere da solo quest'anno una partita all'Inter in Champions League. E forse Mourinho ha una scarsa memoria. Va bene, grazie Guido. Torniamo alle voci, anche quella di Mourinho. Sentiamo qualche frammento della conferenza stampa di ieri. La prima partita è sempre importante, però mi sembra che la seconda è ancora più importante, perché è la seconda che decide tutto. Si esce di solito dalla prima partita senza sapere chi va in quarto di finale, e sicuramente si esce dalla seconda partita con la sicurezza di chi va ai quarti di finale e di chi finisce la sua partecipazione in Champions. E questo era il frammento in cui si rinvia la sentenza alla partita di ritorno, che è vero, anche per la vecchia regola che insomma consente a chi gioca per secondo in casa, consente la disputa in casa degli eventuali tempi supplementari. È chiaro che tutto si deciderà là, però poi da un punto di vista di come orientare la sfida, io credo che la partita d'andata abbia un peso molto molto rilevante. Nelle ultime occasioni comunque è spesso stato così. Poi Mourinho ha anche commentato, o meglio non ha commentato la sentenza, ma insomma in qualche maniera ne ha dovuto parlare, sia pure cercando di rimandare questo argomento. Sentiamo. Qua è sbagliato nella conferenza stampa, sei arrivato troppo presto. Questa è la conferenza stampa di UEFA Champions League per la partita Inter-Chelsea, e è per questa ragione che sono qua perché devo stare, sono qua perché è Champions League, perché è UEFA, perché non sono squalificato, perché devo rappresentare il mio club insieme a un giocatore, però sono qua per Inter-Chelsea andata di Champions League. E questa era la vigilia di Mourinho. Immagino, non ho ancora sentito la voce, ma immagino un po' più serena, un po' più stemperata come sempre, quella di Carlo Ancelotti, che ha parlato anche di Ibrahimovic, di Berlusconi e di stampa in generale. Sentiamo. Credo che sicuramente Berlusconi ha avuto molto più tempo per darvi consigli, Abramovic è all'inizio e avrà, spero, mi auguro che abbia lo stesso tempo, di avere lo stesso tempo con lui del tempo che ho avuto con Berlusconi. Sono trovato bene con la stampa italiana, mi sto trovando bene anche con la stampa inglese, anche se insomma credo che ognuno e ogni paese ha la sua cultura e quindi bisogna rispettare la propria cultura, anche se, come ho detto, sono rimasto sorpreso dalle grandi attenzioni che sono state rivolte ai miei giocatori nella vita privata. Tutto qua, ma rispetto questo tipo di cultura, credo comunque di avere un buon rapporto anche con la stampa inglese, ed è la verità, non sono assolutamente interessati alla formazione, questo è sicuramente un punto di vantaggio che va a loro. Carletto. Antonio ha chiamato da Napoli, buongiorno. Buongiorno, senta, io volevo parlare di Mourinho, praticamente voglio mettere in rilievo questa strana idiosincrasia acuta verso gli errori arbitrali, perché se vediamo la storia di Mourinho, andiamo al 2004, quando con il Porto ha passato il turno con il Manchester United. Al Manchester United è stato annullato un gol clamorosissimo e poi dopo ha permesso al Porto di Mourinho di vincere al centro. Quindi io dico, mi fa strano questa... È disturbata la linea, Antonio, mi scusi. Comunque il concetto è abbastanza chiaro. Io ricordo una sceneggiata, fu quel giorno che cominciai a non apprezzare particolarmente Mourinho, perché ricordo in un Chelsea-Barcellona un trattamento di riguardo, nel senso veramente di una violenza proterva di un esterno sinistro di cui in questo momento non ricordo il nome, del Chelsea su Messi giovanissimo, e tra l'altro reduce allora da uno strappo, era appena rientrato. Ricordo veramente un mare di botte, di entrate estremamente pericolose, cattive. Quando l'arbitro si decise a cacciare questo energumeno, cosa che avrei dovuto fare molto prima, la sceneggiata di Mourinho fu più indegna di come si era comportato il terzino nei confronti di Messi. A me sinceramente bastò quella sera e avanzò per valutare Mourinho dal punto di vista sportivo. E qualunque cosa faccia da qui alla fine della sua carriera, io me lo ricordo quella sera, e quella sera l'ho messo sulla bilancia e l'ho catalogato, indipendentemente poi da quello che sta facendo adesso, e che mi pare comunque dal mio punto di vista che continui a qualificarlo. Tocca a Daniele da Vercelli, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini. Garanzini, dica. Grazie per ospitarmi ancora, non è la prima volta che ci sentiamo. Io vado un po' controcorrente, sono un interista e dico che però la dobbiamo piantare, anche perché se noi dobbiamo essere diversi dagli altri, dobbiamo dire che quando è giusto, giusto. L'operato dell'arbitro, secondo me, domenica non è stato per nulla scandaloso. Hanno fatto due falli, sia Samuel che purtroppo anche Cordova è stato troppo irruento, quindi l'espulsione ci sta tranquillamente. Se proprio vogliamo vedere il pero nell'uovo, poteva evitare l'ammonizione su Eto'o, perché la caduta anche lì ci stava, perché correndo si sono toccati e è caduto. Però certo. Se ci mettiamo sul piano di coloro che continuano a distanza di anni con tutto quello che c'è stato a dire che forse non bisognava mandarlo in Serie B, che gli scudetti sono 30, cioè ci siamo capiti, ritengo che non sia giusto. Quando sbagliano i nostri giocatori bisogna ammetterlo, e rispetto all'ascoltatore di prima che diceva penalizzano l'Udinese, se dobbiamo perdere perché ci hanno squalificato 4 giocatori, è giusto che sia così, è la società che dovrà prendere provvedimenti contro quelli che, ricordo, sono dei dipendenti e che devono tenere in campo un comportamento corretto. Per Daniele, conto mio, hanno sbagliato loro. Non so Daniele dove sia stato sino adesso lei, perché se fosse intervenuto lunedì mattina, lunedì pomeriggio, un po' prestino, avremmo magari replicato più spesso il suo intervento in questi giorni. Lei sa comunque che, per quanto interista lei possa essere, lei sa che da questo momento in avanti, per buona parte dei suoi compagni di fede, lei non è affatto un interista, oppure un traditore, oppure uno che prende ordini dalla CIA, insomma, eccetera eccetera, no? Lo conosce il mondo più o meno. Quel terzino del Chelsea era Delorno, e infatti Franco Piantanida, che ha buona memoria e anche un ascoltatore, me l'hanno appena ricordato per iscritto, quello che quel giorno Delorno tentò di rompere Messi in tutte le maniere possibili, ovviamente su precise istruzioni del suo allenatore in panchina, che era il galantuomo di Mourinho alla guida del Chelsea. Non si riuscì, perché Messi bisogna anche saperlo prendere, nonostante fosse reduce da uno strappo. E ripeto, da quel giorno per me quello è Mourinho. Dicevo all'inizio che questo 24 febbraio peserà sia sul cammino in Coppa dell'Inter o del Chelsea, e sia su quello in campionato, in testa per quello che riguarda il Milan, nelle posizioni di rincalzo immediato per quello che riguarda Fiorentina e Cagliari, e in quelle di coda per quanto riguarda l'Udinese. Sentiamo cos'altro è accaduto, ripassando la storia del 24 febbraio con Nicola Filippone. Sembra ieri. 24 febbraio 1985. La prima stagione di Maradona al Napoli non è stata semplice, ma alla 20ª giornata l'argentino zittisce chi cominciava a manifestare qualche perplessità sulla sua appartenenza alla categoria dei fuoriclasse. Il Napoli batte la Lazio 4-0 e Maradona segna 3 reti, sua unica tripletta in Italia, e propizia l'autorete di Filisetti. I due ultimi gol sono autentiche prodezze, un pallonetto impossibile da 20 metri e un calcio d'angolo carico d'effetto che sorprende il portiere Nando Orsi, costretto a vivere un pomeriggio da incubo. Maradona. Dunque c'è la vigilia della Roma, anche della Roma e della Juventus, per i ritorni di Coppa, ma mentre quello della Juventus in casa contro l'Ajax dopo il 2-1 all'andata, insomma, è una vigilia morbida, lo è un po' meno quella della Roma, che comunque, sia pure anche col minimo scarto, ma è chiamata a vincere domani sera. Leggo dalle ultime notizie che dovrà fare a meno ancora di Toni, ovviamente, di Totti, del portiere Julio Sergio e anche di Pizarro, che non ha recuperato. L'importante, ha detto Ranieri in questa vigilia, è arrivare tra le prime tre in campionato ed evitare i preliminari di Champions League. Questo è il nostro obiettivo, certamente non lo scudetto, perché l'Inter è sempre ancora troppo lontana e può soltanto perderlo lei. La vigilia di queste sfide di campionato, quella di Leonardo per esempio. Io credo che chiudere un campionato è sempre difficile, sempre, anche se vai avanti lì tanti punti, ma quando arrivano le ultime partite che giochi la tensione per chiudere, no? È il rigore, deve tirare, deve far gol, o sbagli, condiziona tutto, no? Allora quello, la chiusura è sempre difficile, mancano ancora tante partite, per quello credo che il fatto di avere squadre, anche la Roma, no? Si è avvicinata, il fatto di creare questa tensione è sicuramente più difficile per chi è davanti gestire, no? Deve sempre guardare indietro e non è semplice, per quello è più quello che la non concretezza dell'Inter. Credo che ci sta un callo, tutti noi abbiamo avuto. L'Inter è la squadra, diciamo, quella più completa, considerata da tutti noi, e ci sta che ci sia un momento, diciamo, di meno risultati, no? Come sono stati, e comunque meno risultati per loro sono pareggi, no? Non sono neanche sconfitte. Per quello credo che l'Inter ha sempre in mano il pallino, nel senso, se riesce a far con che questo periodo non sia determinante, va avanti. Dopo, che può succedere a tutti. Sentiamo anche la vigilia di Prandelli, che mi pare tra l'altro parli di Leonardo stesso. Penso che Leonardo stia facendo un ottimo lavoro, ha dato prima di tutto un'impronta di gioco, ha dato molta serenità all'ambiente, non ci sono giocatori scontenti se non quella di mettere in difficoltà l'allenatore sulle scelte, quindi è un allenatore che mi piace anche perché ha una forte personalità ma non la fa pesare, una persona molto equilibrata e di grande buon senso. Agostino ha chiamato dalla provincia di Vicenza, buondì. Buongiorno, volevo riferirmi a qualcuno che ha parlato per via del gesto di Mourinho. Io sono interista, ovviamente, va bene. Volevo solamente riferirmi al gesto di Mourinho quando incrociò le braccia in segno di manette o quant'altro. Però volevo ricordare anche al dottor Galliani che in una finale di Marsiglia fece spegnere le luci anticipatamente, quindi per via di fair play, insomma. Ce ne corre. Ci sono altri migliori maestri, dice lei. Giovanni da Brescia, buongiorno. Dottor Galanzini, buongiorno. Buongiorno a lei. Due cose velocissime. Sono un analista, le prometto, però io vorrei uscire dal seminato. Vorrei che stasera avesse una bella partita tra Chelsea e Inter. Solo una bella partita e esultare magari su qualche giocata di qualche campione. L'altra cosa... mi dica qualcosa per la partita di stasera a Fiorentina-Milan. Grazie, l'ascolto per radio. Glielo dico dopo le, guardi, verso le 8:20 circa, quando sarà finita. Cosa vuole che le dica adesso se non delle banalità? Allora, lì il Milan viene da una vittoria a Bari, la Fiorentina viene a sua volta da una vittoria casalinga contro Livorno. Non dico rubacchiata, ma insomma comunque non limpidissima né nelle modalità, ma soprattutto al di là delle modalità neanche dal punto di vista della forma. Però non era facile tornare in campo dopo il Bayern e dopo quella delusione e quella, chiamiamola pure, quella rapina finale subita a Monaco. La Fiorentina certamente è una delle squadre più deludenti in assoluto della stagione, se parliamo di solo campionato. Il Milan credo stia andando oltre quello che si pensava alla vigilia. Stop a queste banalità assolute. Ne riparliamo domani dopo aver visto come sarà andata. Gianluca, Vicenza, buongiorno. Buongiorno Gigi, è un piacere finalmente parlare con lei. Praticamente io non sono un grande seguitore di calcio, riesco ad ascoltare solo le sue trasmissioni andando a lavorare, ma mi chiedevo una cosa in questo periodo. Mi sembra che ascoltiamo in generale dalla stampa, da tutti, ascoltiamo il calcio italiano proiettato sempre o spesso in funzione di Mourinho. Non è un sintomo di che c'è qualcosa di deviato, comunque qualcosa che non funziona nel nostro rapporto col calcio, o è magari in qualche cosa, una qualche bravura di Mourinho di riuscire a comunque a canalizzare, a catatirare su di sé tutta questa attenzione direttamente e indirettamente? Ma è un po' c'è qualcosa di strano. Ma sì, ma lei ha perfettamente ragione. È un po' di tutto quello che ha detto lei, ed è un po' anche del fatto che più in generale comunque non sono i personaggi virtuosi, no? Mi pare che catturino l'attenzione in particolare, ma questo non succede soltanto nel calcio. Mi pare che chi fa la voce più grossa, lasciamo stare gli scandali e l'habitat in cui in questo momento ci stiamo dibattendo in questo povero paese, parliamo soltanto del tempo libero. Mi pare che anche nel tempo libero non siano esattamente, appunto, i comportamenti virtuosi quelli che reclamano poi attenzione, che propongono modelli, quelli su cui l'attenzione mediatica si sofferma di più. Su chi sbraita in maniera più spudorata o su chi la fa più grossa, comunque. E questo mi sembra che sia una degenerazione del costume nostrano, proprio, che ormai è in atto da un sacco di tempo e a cui il calcio non può o non vuole o non sa fare eccezione. Chiuderei con Vittorio, ha chiamato la Bologna, buongiorno. Buongiorno a lei, dottore, complimenti. Dica, anche grazie, perché non ho ancora avuto occasione di salutarla personalmente. Io sono di Bologna e ho sangue nobil popolare, rosso-blu nelle vene. Volevo un po' scombussolarle le carte e fare il pirino rompiscatole, chiedendole un parere che considero autorevole su questa mia squadra. su Bologna? Sì. No, non, ho paura che mi rinvierà a settembre. Mi rimanderà a settembre, nel senso che ne so proprio pochino al Bologna. L'ho visto giocare poco, l'ho visto non... sì, solo nelle occasioni in cui gli è capitato di incontrare squadre che reclamavano maggiore attenzione, insomma, no? E per esempio è successo domenica, e per esempio mi sembra che il Bologna si sia battuto con molto coraggio. Mi sembra che da Colomba in poi abbia ritrovato un sacco di cose, nel senso di un po' di qualità di gioco, ma anche più motivazioni, ma anche più convinzione. Credo che nelle condizioni di organico in cui è, se si salva per il secondo anno consecutivo, e adesso le premesse ci sono, io credo che faccia un'altra bella impresa. C'è il tempo per sentire la vigilia di Leonardo e la sua dedica a Carletto Ancelotti. Sentiamo noi spesso, spessissimo, parliamo di tante cose, non è che sempre stiamo lì a parlare di calcio, ma parliamo di tante cose. È normale che io sia molto legato a lui, è normale che anche sia legato anche ai suoi risultati. Io sono complice della sua storia non solo quest'anno, ma da tanto tempo, per quello io tifo per Carlo, ci mancherebbe altro. Detto questo, non c'ho niente di, diciamo, di speciale in più di questo. C'era Filippo Aureggio in regia, c'era Franco Piantanida in redazione. Ci risentiamo domani. Buon pomeriggio a tutti.